c'è la modalità telefonica, bisogna chiamare in questo caso il numero 848-800-444, sembra Raffaella Carrà, è al costo di una telefonata, con i fagioli degli, di una telefonata urbana, dei barattoli, sì. Siamo così impegnativi, professor Iannocca, riascoltarci ci fa consumare così tanti bit. Quando una cosa è piacevole, sì, Deborah. Molto bene, ottimo, risposta esatta. Sì, buongiorno Deborah, buongiorno professore, buongiorno anche ai radioascoltatori. Forse sono un genio, perché è anche modesto, è anche molto modesto. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara. Anche i protagonisti di oggi sono spesso associati all'acqua. Deborah, attenzione, sono due. Ottimo. Sono piccoli, grandi poco più di un pugno. Mi concentro. Ma sono di importanza vitale per la nostra salute. Parlo naturalmente dei reni. Se non fosse per loro, vivremmo ancora negli stagni e saremmo tutti gonfi come rospi, ranocchi, dai. Tanto che un grande medico, Homer Smith, a metà degli anni 50, scriveva che senza reni non ci sarebbero filosofi sulla Terra. È curioso, vero? Sì. Allora, chiediamo intanto ai nostri amici da casa se saprebbero spiegare la ragione. Comunque, non preoccupatevi, tra poco vi daremo alcune informazioni. Sono certa che saprete rispondere e uno di voi porterà a casa una copia di biglietti per la data di Bologna del 27 aprile di Giovanni Allevi. Domani si celebra la giornata mondiale dei reni e noi, come anticipato, vogliamo imparare con l'aiuto del nostro esperto a proteggere la salute di questi organi, nei confronti dei quali, diciamola tutta, abbiamo un po' un debito di riconoscenza. Pensa che fatica faremo a parlare, a ripulirci il video, il video, sì, il corpo tutti i giorni, il video. 800 24 00 24. Intanto, ranocchi a parte, sapreste localizzare i vostri reni? Conoscete i loro gusti? Sapete in pratica che cosa può aiutarli a stare bene o, al contrario, che cosa può minacciare la loro salute? 800 24 00 24, chiamateci, ma potete anche scriverci al 349 238 6666 su Facebook, su Twitter, mettere il mi piace. Ci possono perseguitare in ogni modo i nostri ascoltatori e noi naturalmente ci lasciamo perseguitare molto volentieri. E se nella pagina di Cuore ci concentreremo su questa coppia così importante, sempre alle coppie ci dedicheremo anche nella seconda parte della trasmissione. Alle giovani coppie, però, quelle che sono alla ricerca di una casa, che vorrebbero comprarla per immaginarsi giustamente un futuro un po' più stabile. Sappiamo quanto sia difficile, soprattutto per alcune categorie, richiedere ed ottenere un mutuo, ma sappiamo anche che ultimamente questa situazione difficile ha avuto qualche segnale di miglioramento. Un altro sintomo di questa tendenza incoraggiante sono i dati relativi al fondo di garanzia a casa. Frutto dell'accordo del Ministero dell'Economia con l'Associazione delle Banche Italiane, questo fondo aiuta proprio i nuclei familiari in difficoltà ad accendere un mutuo. Pensate che nel mese di febbraio c'è stato un vero e proprio boom di richieste ed erogazioni di questi nuovi mutui, quasi 28 milioni di euro. Parliamo di mutui destinati a giovani coppie, ma anche a nuclei monogenitoriali con figli minori e in generale di giovani con età inferiore a 35 anni. Se vi ritrovate in queste categorie e volete accendere un mutuo, iniziate a chiamarci all'800 24 00 24. Siamo la coppia più bella del mondo. Non so se sia la più bella, ma certamente la coppia meno chiacchierata, di cui si parla e si sente parlare raramente. Meno popolari del cuore, del fegato, ancora meno del cervello, i reni lavorano senza che noi ci curiamo di loro. Forse non sappiamo esattamente neppure dove si trovino, né che cosa facciano di preciso. Sono organi di filtro, no? Sentiamo dire. Ma che cosa filtrano? Insomma, di loro abbiamo poche e confuse informazioni. E ci viene molto difficile associare ai reni la parola prevenzione. Del cuore conosciamo i nemici, la stessa cosa potremmo dire del fegato, del nostro cervello, riusciamo anche a cogliere e a riconoscere eventuali segnali di malessere, ma dei nostri reni sapreste dirmi che cosa li aiuta, che cosa li fa funzionare bene, che cosa è fondamentale per loro e che cosa può minacciare la loro salute? 800 24 00 24, potete approfittare del numero verde per rispondere alle nostre sfide, ma anche per raccogliere le informazioni e conoscere le regole di prevenzione, se avete un valore sospetto, se un vostro familiare ha una malattia renale o in dialisi o in attesa di trapianto, se soffrite o avete sofferto di calcoli renali. La puntata, come sempre, la costruiremo proprio partendo dalle vostre domande, quindi vi aspettiamo, ma intanto vogliamo dare il benvenuto al nostro ospite. È il professor Antonio Santoro, che è presidente della Società Italiana di Nefrologia, direttore dell'unità operativa di nefrologia, dialisi e ipertensione. Certo, perché è tutto legato. Beh, quante soddisfazioni mi dai? Mi applico. Del Policlinico Sant'Orso alla Malpighi di Bologna. Quindi conosce il professor Borghi, il professor Vaira. Buongiorno, è praticamente a casa, professor Santoro. Benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai vostri ascoltatori. Buongiorno. Ah, certo, io sono amico tanto di Claudio Borghi quanto del professor Vaira. Ecco, quindi. E poi ha notato che Deborah, quando le ha detto ipertensione, ha detto è tutto collegato. Sì, è verissimo. Deborah ha perfettamente ragione. Ce lo chiariremo nel corso della nostra conversazione. Benissimo. Questo aspetto. Intanto già Deborah sa. 800 24 00 24 per intervenire al nostro programma. Professor Santoro, al mondo una persona su 10 ha qualche forma di danno renale. Questo vuol dire che anche i reni si ammalano e lo fanno a loro modo, silenziosamente ma inesorabilmente, progressivamente, giorno dopo giorno non riescono più a svolgere la loro funzione. E qua è così, vero professore? È perfettamente così come dice lei. Purtroppo negli ultimi due decenni il numero dei pazienti con insufficienza renale si è quintuplicato, pensi. E i pazienti che iniziano la dialisi sono raddoppiati negli ultimi 20 anni. E questo numero purtroppo è destinato ad aumentare e interessa soprattutto delle persone che hanno un'età superiore ai 65 anni, dopo forse chiariremo anche questo aspetto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, pensi, ha definito questo aumento delle malattie renali come una vera e propria pandemia. E le ragioni sono che c'è un allungamento della vita media e c'è un aumento esponenziale di malattie quali l'ipertensione arteriosa e il diabete di cui parlavamo prima. Pensi che si prevede che nel 2030 le persone nel mondo con ipertensione saranno 2 miliardi e mezzo, le persone con diabete 500 milioni, quindi la malattia renale quindi è estremamente importante, c'è un grosso impatto sociale. E anche economico, dato che... Impatto anche economico perché, per esempio, soprattutto l'impatto economico della dialisi consuma un sacco di risorse del sistema nazionale, quindi c'è una grande importanza sulla diagnosi precoce, la prevenzione, come diceva lei. E c'è anche il problema che l'impatto sociale deriva dal fatto che i reni si associano alle malattie di cuore e quindi aumenta molto di più l'incidenza delle malattie cardiovascolari, dell'infarto miocardico, dell'ictus e il rischio di morte per malattia cardiovascolare è superiore nelle malattie renali a quello di avere un tumore del polmone o sicuramente un tumore della mammella. Quindi stiamo parlando di un problema estremamente importante. Quello che c'è di difficile è, come ha detto lei, che i reni sono muti nella loro espressione praticamente di sofferenza, cioè mentre altri organi sono molto più evidenti quando hanno una disfunzione, pensate al cuore dove c'è un problema di sicuramente di fatica a respirare o il battito cardiaco aumenta, i reni, certo. Il fegato condiziona la digestione, i reni non fanno praticamente tutto questo. Sono piccolini, lei l'ha detto, sono lunghi 10 centimetri, dai 10 ai 14 centimetri, larghi 5-6 centimetri, una spessore di 4, pesano 150 grammi, quindi sono piccolissimi, eppure bisogna pensare che il rene praticamente riceve ad ogni battito cardiaco un quarto del sangue perché deve svolgere questa sua funzione di filtrazione. E c'ha tutta una serie di piccole stazioni filtranti che sono dei gomitoli di capillari sanguigni che si chiamano i glomeruli che svolgono questa funzione di filtro fino a produrre un'acqua che è la nostra urina, che è una sorta di spremuta del rene che praticamente contiene tutte le sostanze tossiche e di sali che vogliamo eliminare. In tutto questo è una funzione silenziosa che si svolge praticamente 24 ore su 24 e che permette all'organismo praticamente di avere un suo equilibrio dal punto di vista dell'acqua, dei sali, delle scorie azotate. Poi ci chiariremo anche questo. Anche questo, perché proprio in occasione della presentazione della Giornata Mondiale dei Reni alla stampa, lei e i suoi colleghi avete detto che senza reni vivremmo negli stagni come ranocchi. Ci vuole spiegare perché in questo modo dà anche un aiutino a chi si cimenterà a rispondere al nostro domandone di oggi, e cioè commentare, spiegare la frase di questo grande medico, Homer Smith, che negli anni 50 scriveva che non ci sarebbero filosofi sulla terra se non ci fossero i reni. Per chi risponderà correttamente dando la giusta spiegazione a questa, no, questa sfida, mettiamo in palio una coppia di biglietti per il concerto di Giovanni Allevi a Bologna, dove il maestro, il nostro amico Giovanni per noi, si esibirà il 27 aprile. Può dare un aiuto ai nostri amici? Aveva detto una cosa perfettamente veritiera, perché noi vivevamo nell'acqua e quindi avevamo a disposizione acqua e sale in grande quantità. Poi i mammiferi si sono dovuti trasferire sulla terra. Per trasferirsi sulla terra però avevano bisogno di regolare appunto l'equilibrio dell'acqua, l'equilibrio del sodio, l'equilibrio del potassio, e quindi hanno dovuto sviluppare questi due organelli che abbiamo detto che sono piccoli di dimensioni, però con una funzione estremamente importante, perché loro attraverso questi si permette di avere un buon equilibrio dell'acqua, perché noi siamo fatti di acqua nel 60% dei nostri organi, e in alcuni organi come il cervello anche di più, perché nel cervello c'è il 70% invece di acqua, e quindi la regolazione dell'acqua diventava fondamentale trattenere il sodio, perché così possiamo avere un nostro equilibrio, quello che si chiama l'equilibrio osmotico, cercare di eliminare il potassio quando è in eccesso, però mantenerselo in concentrazioni adatte a far funzionare quelle che sono le cellule. Quindi noi abbiamo dovuto proteggerci praticamente da questa mancanza cronica di acqua che avevamo quando vivevamo negli stagni e veramente eravamo gonfi. A questo punto 800240024, il professor Santoro vi ha dato tutte le indicazioni per rispondere alla nostra domanda, perché senza reni non ci sarebbero filosofi sulla terra. Intanto, professore, prima di parlare delle regole di prevenzione, vorrei leggere, Deborah, se sei d'accordo, alcuni messaggi che stanno arrivando, perché qualche dubbio su quello che può fare bene o male ai nostri reni ce l'abbiamo. Certamente, dopo tutte le cose che abbiamo sentito. Vabbè, intanto salutiamo Alfonso che ci ascolta dall'auto, che ci racconta che oggi ci ascolta particolarmente volentieri perché è da 10 anni che vive alla grande con un solo rene, quindi anche questo è un aspetto da ricordare. Perché si può vivere con uno piccolino così, ma può fare addirittura la funzione di due. Uno da solo che può fare la funzione di due, professor Santoro? Sì, questa è una bella domanda, Alfonso può stare tranquillo, perché i reni sono fatti veramente, sono una macchina perfetta, perché pensate che ogni rene non utilizza sempre tutta la sua parte cosiddetta di parenchima, cioè che è la struttura che fa la funzione filtrante, ma si mantiene una sua riserva, si mantiene una riserva almeno del 30%, quindi quando viene meno l'altro rene lui comincia a lavorare su quella che è la riserva, è come se noi avessimo una riserva praticamente di carburante, quindi Alfonso avrà una funzione probabilmente normale, una funzione renale, perché il suo rene superstite è andato a sfruttare quella che è la parte di riserva funzionale, quindi quei famosi gomitoli di sangue che sono i glomeruli li ha impegnati ora tutti, però tutti riescono poi dopo a mantenere un equilibrio. Allora, poi ci sono delle altre domande, ad esempio Mimmo ci scrive: vorrei sapere se è vero che gli asparagi fanno affaticare i reni. Adesso tra poco arriva la stagione, esatto. Professor Santoro. No, assolutamente, quello lo pensiamo perché qualcuno di noi non ha degli enzimi particolari che si chiamano asparaginasi, sì, che fanno eliminare quelle che sono le sostanze contenute dentro gli asparagi, praticamente le sostanze chimiche, per cui le eliminiamo con le urine, a volte qualcuno ha un cattivo odore praticamente dopo aver mangiato gli asparagi, per cui quel cattivo odore non è semplicemente dovuto a queste sostanze che sono delle sostanze odorose, ma non è assolutamente un affaticare il rene, non sfatiamo questo mito che mangino gli asparagi, anzi fanno bene. Mentre Lalla ci porta invece in palestra. Ci porta in palestra perché naturalmente chiede se le proteine che fanno assumere in palestra i ragazzi fanno assumere, diciamo che prendono in totale autonomia, penso, perché si può anche dire di no sulla assunzione, immagino, di queste sostanze per migliorare le prestazioni, fanno male ai reni, professore? Beh, questa è una bella domanda, in effetti è una domanda, perché le proteine sono quelle che fanno più affaticare il rene, mentre prima parlavamo degli asparagi e abbiamo detto di no, le proteine non è vero, perché tutti i prodotti di degradazione delle proteine praticamente devono essere eliminati dal rene e quindi loro vanno in sovraccarico. Se questo avviene cronicamente, chiaro che non è che si tratta di un carico che avviene una volta ogni tanto, come uno si mangia tante proteine, si mangia una bistecca dai 300 grammi, provoca qualcosa, però il carico continuo del rene lo fa iperfiltrare, iperfiltrando naturalmente è più facile che si consumi di più, quindi sulle proteine una delle precauzioni che noi diciamo nel nostro decalogo per mantenere sani i reni è proprio quello di ridurre le proteine, ecco, come tali, anche se le proteine vengono date per aumentare le masse muscolari, però non è sicuramente una cosa da fare in maniera continuativa. Professore, oggi per sensibilizzare l'attenzione nei confronti di questa bella coppia possiamo lavorare su due fronti. Il primo è definire il profilo della persona a rischio, il secondo utilizzare un indicatore che funzioni come una specie di cartina tornasole dello stato di salute e funzionamento dei nostri reni. Andrei al profilo, tutti devono fare attenzione. Un ascoltatore ci ha scritto sentendo che una persona al mondo su 10 ha dei problemi renali, ci mi fate no, con questi numeri, spaventare. Però noi insomma siamo... dobbiamo diventare anche un po' artefici, protagonisti attivi della nostra salute, della nostra prevenzione, quindi dobbiamo stare attenti anche ai segnali che a volte molto difficili da interpretare che i nostri reni ci mandano. Ma professore, qual è l'identikit della persona che dovrebbe controllare la salute dei propri reni, o meglio qual è il profilo della persona che espone i propri reni ad un maggior rischio di ammalarsi? Sì, ma sicuramente, come abbiamo detto prima, i soggetti che hanno l'ipertensione arteriosa, soprattutto quando questa non è ben curata, principalmente in queste condizioni, soggetti che hanno un diabete, soggetti che hanno un'obesità abbastanza importante, perché l'obesità fa sovraccaricare i reni, come dicevo in precedenza, ci sono alcuni soggetti che hanno delle malattie di carattere ereditario, quindi devono sapere che possono sviluppare nel corso della loro vita la malattia renale che era presente nei propri familiari. E infine ci sono soggetti che abusano per esempio in sostanze che possono essere tossiche, quali possono essere dei farmaci, soprattutto alcuni farmaci antinfiammatori, si definiscono farmaci antinfiammatori non steroidei, che vanno a incidere sul rene. Il rene, essendo un organo che filtra una grandissima quantità di sangue, circa 150 litri, tutte le scorie che ha, sia che queste siano delle scorie di carattere alimentare, come dicevamo prima, oppure dei farmaci, arrivano sul rene e possono determinarne quello che è un danno. Quindi direi prevalentemente soggetti che, ripeto, hanno quello che si chiama la sindrome metabolica, credo che ne avete parlato anche voi molte volte nella vostra trasmissione. Perché no? È una condizione molto diffusa, ma per chi si riconosce in questo profilo, quindi ha la sindrome metabolica, quali consigli per evitare di danneggiare i reni? La sindrome metabolica, allora, quello che dovrebbe essere cercare di ridurre, questi sono i fattori di rischio della sindrome metabolica, quindi quello che potrebbe essere il sovrappeso, l'attività fisica regolare, quindi quelli sono sicuramente da favorire, è quello di controllare invece la funzione renale, come diceva lei, perché essendo un organo che è muto, spesso non dà dei segni di sé, a meno che non ci siano delle condizioni particolari, quali sono le infiammazioni del rene, che possono essere conseguenti per esempio alla presenza di calcoli, oppure situazioni in cui ci sono, il paziente si gonfia, cioè l'acqua, trattiene l'acqua, una condizione che si chiama con un linguaggio medico la sindrome nefrosica, cioè il paziente non riesce più a eliminare la quantità di acqua che assume con i liquidi o con gli alimenti liquidi, e quindi il paziente assume dell'acqua nell'organismo, quindi si gonfia le gambe, si gonfiano gli occhi. E quindi fare a proposito di ranocchi e quindi fare una prevenzione prima di andare ai mercati, poi nella seconda parte naturalmente cercheremo spazio di capire anche. Innanzitutto spazio alle telefonate che sono già tantissime con tutte le domande per che cosa può danneggiare questa coppia eccetera, ma soprattutto andremo anche a capire quali sono i segnali. Noi già dalla nostra urina potremmo capire qualcosa, dal colore, dal numero delle menzioni, quando facciamo pipì la notte, perché poi ci sono naturalmente dei valori. Ma professor Santoro, chi ha avuto coliche renali o chi ha infezioni ricorrenti ha un maggiore rischio di vedere compromessa la funzionalità dei propri reni? Certo, sicuramente, come dicevo prima, sì, per forza, perché a questo punto la presenza di calcoli lungo la via urinaria ostacola quello che è il deflusso di questa urina. Ecco, quindi noi chiamiamo anche a raccolte i nostri amici da casa che magari si sono confrontati con una colica renale che l'ha provata e dice che ha un dolore simile al parto. Solitamente lo dicono gli uomini, non si capisce perché. Vabbè, comunque chiederemo anche al professor Santoro, che è uomo, ma dei reni li studia e li conosce bene. Cuore e denari. Chi trova la relazione fra questa canzone e il tema che devo lanciare veramente un genio. Gli portiamo Giovanni Allevi a casa per una settimana. O gli regaliamo Marco e Isotta perché se ne inventano una al giorno. No, non possiamo. Allora, mercato dei mutui che sembra stare meglio, che sembra ripartire. È davvero così? Ce lo chiederemo tra poco a Cuore Denari nella seconda parte della nostra trasmissione. Proviamo a sentire anche attraverso le vostre telefonate il polso di questo mercato. Siete riusciti di recente ad ottenere un mutuo? Vi sembrava un'impresa impossibile solo fino a qualche anno fa? Cosa è cambiato? Siete voi che riuscite a dare maggiori garanzie o è la banca ad essersi un po' ammorbidita? O siete riusciti a beneficiare dell'intervento del Fondo di Garanzia Casa, frutto dell'accordo fra ABI, l'Associazione delle Banche Italiane e Ministero dell'Economia? Proprio sull'attività di questo fondo ci concentreremo a partire dalle 11.45, ma voi potete già iniziare a fare le vostre domande all'800 24 00 24. Stiamo ascoltando Loving You, tratta dall'album Love del nostro amico Giovanni Allevi. Oggi, ancora per il prossimo mercoledì, abbiamo a disposizione una coppia di biglietti per il suo Piano Solo Tour 2015. Vogliamo allora ripetere il nostro domandone, che l'abbiamo fatto un po' complicato, ma il professor Santoro ha dato tanti aiutini. Sì, dai, degli aiutoni. Dai. Allora, abbiamo detto all'inizio della puntata che abbiamo nei confronti dei nostri reni una sorta di debito di riconoscenza. Non sarebbe stata neanche male una vita da ranocchio. Comunque, la domanda è: perché i reni ci hanno permesso di uscire dagli stagni? A questo punto potete anche raccontarci il motivo. E quindi, in pratica, che cosa dovete dirci, professor Santoro? In pratica devono raccontarci che cosa fa il rene, giusto? Certo, le funzioni del rene. Poi se noi ranocchi filosofi non ne abbiamo mai conosciuti, e quindi questa è un po' la spiegazione che vi invitiamo a dare per avere una coppia di biglietti. Professor Santoro, intanto abbiamo Anna da Roma e poi subito dopo Flavio dalla provincia di Treviso, ma poi lei ci dirà facciamolo già subito prima di sentire Anna. Abbiamo detto che noi dal numero delle menzioni, dal colore della nostra urina possiamo non certo fare autodiagnosi, ma capire già, avere qualche informazione. Professor Santoro, sì. In questo, perché in pratica quando noi beviamo, il colore dell'urina è molto significativo. Se noi beviamo molto acqua, l'urina diventa estremamente chiara. Se ne beviamo poca, diventa concentrata. Però, per esempio, delle urine rosse, delle urine colorate, vuol dire che stiamo praticamente perdendo il sangue. Ma anche il ritmo dell'urina è importante, perché in genere noi eliminiamo 1,5 litri, 2 litri di urina, eliminiamo prevalentemente nelle ore del giorno, perché la maggiore produzione delle urine avviene fisiologicamente in questo periodo. I 2/3 almeno della produzione dell'urina vengono nelle ore del giorno, mentre solo 1/3 durante la notte. Però se noi cominciamo a urinare molto spesso, e quindi abbiamo probabilmente qui dei problemi, che possono essere per esempio dei problemi di infezione lungo le vie urinarie. Se noi uriniamo molto di notte, termine medico è quello della poliuria, cioè facciamo tanta urina durante la notte, e qui potremmo avere dei problemi renali, perché questo è uno dei motivi per cui si può sospettare una insufficienza renale, anche se questo urinare di notte può essere dovuto anche ad altri fattori, perché solo questo, per esempio, è noto come l'ipertrofia della prostata, l'ingrandimento della prostata può generare praticamente un urinare frequente di notte, il dovesse alzare, questo parlo soprattutto negli uomini, però anche qui si può riconoscere qualcosa, perché la poliuria renale è una poliuria in cui uno va a urinare, fa tanta urina chiara, perché contiene poche sostanze tossiche. Chi ha un problema di prostata va a urinare, però tutte le volte esce poca urina perché la prostata ostacola l'uscita delle urine. Quindi ci sono dei piccoli segnali che osserviamo semplicemente l'urina. Quindi, come tale. Ecco, anche per se vi alzate di notte a fare la pipì, cercate di, no, anche la quantità dell'urina può indicarvi, no, come una freccia. Prostata, reni. Anna, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Benvenuta. Grazie. Anna, forza. Sì. Allora, io volevo chiedere al professor Santoro, sì, una cosa che tutti i medici ci dicono quando si va a visita, di bere almeno 1,5 litri al giorno di acqua. Sì. Perché io ho problemi con il mio compagno, mio marito, perché lui dice dammi qualunque bevanda, dall'acqua e dado a un succo di frutta, al tè, eccetera, ma non mi dare l'acqua perché non riesco a berla. Mm. Ora, io credo, almeno penso, che non si possa sostituire l'acqua con tutta questa serie di bevande. E poi volevo sapere se un litro di tè al giorno a temperatura ambiente può andare bene, perché lui adesso supplisce in questo modo. Certo. Oltretutto ha avuto un intervento a cuore aperto 2 anni fa con 4 bypass. Come una cosa abbastanza complicata. Adesso come sta il suo compagno, Anna? Benissimo, ecco, benissimo, ha solo questa, c'è sempre il problema della... non beve l'acq└└└============².================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================└============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Questa è una bella domanda. Purtroppo la bevanda ideale è proprio l'acqua, ecco, quindi dovrebbe cercare di convincere il suo compagno in questo, perché per esempio il tè contiene delle sostanze, dei sali come lo salato, che presi in grandi quantità possono favorire la formazione dei calcoli. Quindi il bere acqua, il bere dell'acqua con pochi sali è sicuramente la via migliore per diluire le urine ed impedire poi dopo di avere delle malattie renali. Questo è fondamentale. Poi, piuttosto che non bere, uno può bere anche delle bevande che non siano l'acqua, però purtroppo il tè può contenere lo zucchero rientra poi dopo, cioè, nella produzione. Sente, quindi invece però delle tisane, che ne so, ecco, tisana di finocchio. Potrebbe essere preferibile. La parte vegetale, se le tisane vegetali sono preferibili all'uso sicuramente del tè, quindi se riesce a portare il marito a bere delle tisane sicuramente potrebbe essere benefico. E ci sono tante tisane che hanno anche un effetto diuretico, quindi sicuramente questo potrebbe essere la via per prevenire il fatto di concentrare molto le urine, a maggior ragione se il signore ha delle malattie cardiovascolari, quindi è importante che lui elimini delle grosse quantità di urina, ecco, e non trattenga l'urina e le scorie azotate. Professore, proprio in occasione della giornata mondiale del rene avete ideato una campagna che sottolinea in fondo che la prevenzione è facile come bere un bicchiere d'acqua. Sì, noi abbiamo fatto questa campagna e devo ringraziare la San Pellegrino che praticamente ha sponsorizzato questa campagna in maniera proprio incondizionata come tale. Abbiamo fatto questa campagna perché, come abbiamo detto, l'acqua è importante, quindi abbiamo detto che bisogna bere almeno 1,5 litri di acqua. Noi lanceremo nei prossimi giorni anche una campagna con dei selfie che si chiamerà Water Selfie, in cui ognuno di noi berrà un bicchiere d'acqua e poi farà un selfie, lo manderà praticamente al sito della Società di Nefrologia e all'associazione ANED, che è l'associazione dei pazienti in dialisi, questo per testimoniare come l'acqua sia importante. Poi in più la San Pellegrino in questo ci aiuterà perché finanzierà una campagna dell'ANED, perché per ogni selfie donerà all'ANED, all'associazione dei pazienti che fanno la dialisi in Italia, che vi ricordo sono 50.000 praticamente, almeno solo in Italia come tale, ma diversi milioni nel mondo, donerà 50 centesimi per ogni selfie, e quindi l'ANED poi metterà in atto una serie di campagne che servono per l'educazione dei pazienti. Anche per le persone soprattutto che non hanno problemi renali. E per le persone che non hanno problemi renali, perché qui torniamo sul tasto della prevenzione, perché come abbiamo detto lì è molto importante non arrivare alle fasi terminali. Ecco, professore, noi abbiamo un minuto. Allora, indicazioni, quali sono gli esami? Controllare la pressione arteriosa, prima cosa. Secondo, ci sono l'esame dell'urina e l'esame del sangue. Quali sono gli indicatori che il medico va a controllare per valutare la nostra funzionalità renale? Semplici sono, la creatinina, come ha detto lei, e le samorine. Le samorine è una sorta di spremuta dei reni, per cui là capiamo che cosa c'è. Se noi troviamo delle proteine o troviamo del sangue ci dobbiamo preoccupare, anche perché la presenza di proteine nelle urine può essere anche un indicatore di malattie cardiovascolari. Del cuore. Si parla molto di albuminuria o microalbuminuria, ecco, credo che se ne è parlato anche nelle vostre trasmissioni. L'altro discorso è quello della creatinina, perché misurare la creatinina vuol dire andare a misurare la funzione del rene. Ora ci sono a disposizione delle formule semplicissime che ci danno dalla creatinina qual è il filtrato del rene, cioè quella capacità del rene filtrante, quindi noi dobbiamo stare con dei valori di filtrato che sono sopra 80, tanto per dare un'indicazione. Un numero magico. Se siamo sotto 80 abbiamo qualche problema, che può essere poi minimo, può essere moderato, può essere praticamente grave, però direi che quelli che sono i soggetti a rischio che abbiamo cercato di definire prima, l'iperteso, il diabetico, che lo considera metabolica, dovrebbero periodicamente fare un esame urine almeno e una creatinina e una misura della pressione arteriosa. Grazie professore, abbiamo tantissime telefonate che non siamo riuscite, a cui non siamo riuscite a dare risposta. Professor Santoro, io conto sulla Società Italiana di Nefrologia, chiediamo ai nostri ascoltatori di inviarci tutte le loro mail e noi le gireremo, esatto. E professor Santoro, lei come presidente toccherà distribuirle tra i vari nefrologi italiani. Professore, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, complimenti per la chiarezza soprattutto. Cuore e denari. Eccoci ritrovate in diretta e allora prima di passare all'approfondimento di denari, però abbiamo in sospeso un impegno con i nostri ascoltatori. Abbiamo fatto il quizzettone, a cui cerchiamo di capire se Norisa da Firenze ha risposto bene. Però qua Nicoletta mi deve aiutare tu sulla riproposizione della domanda. Norisa, buongiorno. Non chiedevamo allora, se il bacio di una principessa può trasformare un rospo non ci in sono. Principe? Magari in filosofo sì, hai visto mai. Norisa, allora, perché non viviamo più negli stagni grazie ai reni? Perché sono capaci di filtrare, depurare il nostro organismo e di mandare via l'acqua in eccesso, se no saremmo gonfi, come ha detto il professore. Grazie Norisa, allora naturalmente vuole andarsi a vedere, la mandiamo? Certo, vuole andare a Bologna, Firenze-Bologna con un Frecciarossa in un'oretta e là. Senz'altro, mi farebbe molto piacere. Ottimo. Va bene, allora Bologna del 27 aprile, Norisa si andrà ad ascoltare il nostro Giovanni Allevi. Grazie Norisa, lo ascolti anche per noi, un abbraccio e dalla redazione prenderanno tutti i suoi contatti. Grazie molte. Vi ringrazio moltissimo, buona giornata. Anche a lei. Io vado a vedere case con Olli, ma mica la compriamo. Che c'è? Fratello. Che c'è? Quando tua moglie dice che è solo una guida di prova del minivan, ti stai comprando un minivan. E quando dice che state solo guardando le case, stai comprando una casa. No. Oh sì, come no? Io non compro una casa. Controlla le ricevute. Benvenuto nel club del mutuo. Segnali positivi per il club del mutuo. Chissà se i mariti all'ascolto saranno contenti o meno e se qualcuno si ritrova in questa clip cinematografica. Ma tant'è, ci siamo detti più volte che da qualche mese a questa parte, per ciò che attiene al mercato immobiliare, al mercato dei mutui, le cose sembrano andare un po' meglio rispetto a qualche anno fa. Il 2014 si è chiuso con una buona ripresa intanto delle compravendite immobiliari dopo 7 anni consecutivi di cali. Nicoletta, se fossero chili qua saremmo tutti in grandissima forma, le transazioni immobiliari sono tornate in positivo e hanno avuto un aumento dell'1,8% appunto sull'anno precedente. Lo ha rilevato proprio la settimana scorsa l'Agenzia delle Entrate. Resta da chiedersi se il credito sta accompagnando questa tendenza o occorre ancora fare il doppio salto carpiato per ottenere un mutuo. Se i dati 2014 ci sembravano incoraggianti, anche in questo senso quelli relativi a gennaio 2015 comunicati proprio ieri da Banca Italia invece fotografano forse una piccola battutina d'arresto sull'anno precedente, perché i prestiti delle banche ai privati sono a gennaio scesi dell'1,8%, ma insomma a prescindere poi dalle statistiche più o meno temporanee, voi partite e concretizzate il nostro programma con i vostri fatti personali più che con i numeri. Raccontateci all'800 24 0024 o al 349 238 6666 se siete magari fra quei nuclei familiari che sono riusciti ad accedere al fondo di garanzia per la casa, quel fondo rivolto soprattutto alle giovani coppie, garantito dallo Stato, che vorrebbe permettere l'acquisto della prima casa o la ristrutturazione di questa a chi ha determinati requisiti anagrafici e magari un merito di credito un po' meno pregiato del tradizionale, passatemi questo termine. Il fondo è partito da un mese, ha già stanziato quasi 28 milioni di euro. Allora, chi può chiederlo? Oggi risponderemo a queste domande. Qual è la procedura per farlo? Io oggi mi sono presa, Nicoletta, anche i moduli con tutte le voci che devono essere compilate, per cui se qualcuno vuole candidarsi a compilarli insieme a noi possiamo vedere se ha già i requisiti. Facciamo tipo un facsimile di istruttoria stamattina a Cuore Denari. Mi piace, approfittatene, mi raccomando. E tra l'altro tutte le risposte, se le informazioni che date sono corrette o meno e adeguate ad ottenere un mutuo di questo tipo, ce le darà Angelo Peppetti, ufficio crediti dell'ABI, che salutiamo, ormai un amico di Cuore Denari, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, adesso dovremmo preparare dei distintivi, sai, le spillette, Cuore Denari, che così invece che il bollino gli mettiamo uno spillino. Esatto, agli amici di Cuore Denari. Allora, io volevo precisare una cosa per gli ascoltatori, che così magari non chiama, cioè se vogliono chiamare, noi li accogliamo volentieri, però parliamo appunto proprio solo di nuovi mutui e quelli che in qualche modo sono legati a questo fondo di garanzia, quindi non è la puntata per chi vuole rinegoziare, cambiare il mutuo in corso, perché su questi temi ci siamo già andati in passato, ci ritorneremo. Oggi invece il tema è proprio preciso: fondo di garanzia, giovani coppie, famiglie monogenitoriali, chi può accedere a questo mutuo speciale. Quindi coppie age non le vogliamo. Ma allora, se vogliono la nostra compagnia, noi le prendiamo lo stesso, però ecco, non possiamo dare magari una risposta, magari lo faremo dalle 12:20 in avanti. Allora, dottor Peppetti, cominciamo con lei, con le coordinate di questo mutuo, di questo fondo garanzia per la casa, che è stato istituito con la legge di stabilità dello scorso anno, quella per il 2014. Qual è la storia di questo strumento, la storia, definiamola così, legislativa? Sì, guardi, questo è uno strumento che subentra un precedente fondo che era semplicemente destinato alle giovani coppie, che ha consentito l'erogazione solo di pochi mutui perché presentava una serie di imperfezioni che noi avevamo sollevato e manifestato sin dall'inizio. Questo fondo invece ha risolto quelle problematiche e adesso effettivamente è uno strumento che innanzitutto è rivolto a tutti, quindi non solo alle giovani coppie ma ad una platea molto più ampia, cioè tutti quanti sostanzialmente, e sono state risolte le problematiche, i vincoli che impedivano una corretta operatività di questo strumento, che invece è molto importante per avvicinare la domanda con l'offerta, diciamo così. Stavo già sorridendo al messaggio di Andrea che ci scrive: le banche con i mutui sono rigide, peggio del cemento armato. Ne ho affrontate tre. Se si supera il 30% del rapporto rata reddito non concedono assolutamente nulla. Guardi, Andrea, che non le stanno facendo un dispetto, io glielo assicuro, che quando arriva questo impegno mensile da rispettare tutti i mesi e se è troppo sbilanciato rispetto al reddito che entra in casa, diventa faticoso per voi. Io le posso assicurare che se lei adesso lo percepisce come un dispetto, non è così. Poi magari commenteremo anche questi commenti dei nostri ascoltatori che si sentono respinti dalla banca, ma in realtà non è bene indebitarsi per un valore troppo sbilanciato rispetto alle nostre possibilità. Quindi guardi, Andrea, le assicuro che non è assolutamente una notizia negativa questa per lei. Dottor Peppetti, quasi 28 milioni di euro a febbraio 2015, in realtà siamo quasi a metà marzo, forse questo dato è già stato superato. Per quello che riguarda l'operatività del fondo di garanzia per la casa, abbiamo appunto dati aggiuntivi su quanto è stato erogato e abbiamo anche informazioni aggiuntive su dove sono stati distribuiti in prevalenza e a quali nuclei familiari? Guardi, innanzitutto dobbiamo dire che in un mese ha consentito l'erogazione di mutui per un numero superiore rispetto a quanto ha fatto il fondo precedente in tre anni, quindi questo è già un'informazione significativa sulle potenzialità del fondo. Ma guardi, devo dirle che nel primo mese forse è poco significativo individuare quali sono le tipologie del mutuo, sia di natura geografica, cioè dove è ubicato per esempio l'immobile da acquistare, sia con riferimento alla tipologia del nucleo familiare a cui è stato erogato, perché questo ovviamente è influenzato dal numero di banche che in quel momento erano una settantina. Esatto, adesso rappresentano già il 60% di tutto il settore bancario e continuano quotidianamente ad aderire. Benissimo. Quindi, diciamo, allora si fermi lì perché dopo il giornale radio daremo le informazioni su dove trovare la banca che ci dà l'opportunità di fare una richiesta per un mutuo di questo tipo. Risponderemo a Marco dalla provincia di Milano che si è già candidato con la sua domanda. Tante cose da fare subito dopo il giornale radio. Cuore e denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso mutuo. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso mutuo. Aiuto, aiuto. Quasi una trentina di milioni di euro di nuovi mutui, giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori under 35, ma in realtà abbiamo appreso nella prima parte di Cuore e Denari che i candidati ad ottenere questo mutuo con questo fondo di garanzia per la casa sono molti di più. Questa è un'iniziativa frutto di un accordo siglato mesi addietro e di cui da qualche tempo abbiamo qualche dettaglio tra ABI, Associazione delle Banche Italiane e Ministero dell'Economia. Stamattina ne stiamo parlando con voi, insieme a Nicoletta naturalmente, con Angelo Peppetti, l'ufficio crediti dell'ABI. 800 24 00 24 numero verde a vostra totale disposizione per farci tutte le vostre domande su questa iniziativa. Raccontateci se avete fatto, se ne avevate già sentito parlare, se siete andati in banca a bussare alla porta e a chiedere proprio di questo mutuo specifico che è dotato di questa garanzia statale. Cosa vi hanno detto? Ci spiegava prima Angelo Peppetti che non tutte le banche subito si sono preparate, anche perché c'è anche da dire, poi qua passo per quella che le difende, ma che ogni mese gliene arriva una, per cui anche loro poi ad attrezzarsi al volo fanno Peppetti un po' di fatica. Lei tante volte quando ci siamo incontrati, lo incontro spesso a qualche convegno, mi fa sempre la lista della spesa Peppetti su tutti gli adempimenti che le banche devono affrontare periodicamente, che riguardano i mutui, i prestiti, i crediti alle imprese e tutto il mondo, insomma, no? Angelo Peppetti. No, al collega che sta allo sportello che purtroppo esatto, veramente adempie tutta una serie di norme, normative, obblighi che veramente ogni giorno poi continuano ad essere sempre più nuovi e sempre più fantasiosi. Infatti. Senta, la dotazione, che capienza ha questo fondo di garanzia per la casa? Perché perché mi interessa la capienza? Perché leggevo che ha una disponibilità finanziaria di 600 milioni di euro in 3 anni, ma che in realtà questi 600 milioni potrebbero avere un effetto moltiplicatore sul mercato al punto da poter consentire erogazioni complessive da oltre 10 miliardi? Come avviene questa moltiplicazione? Come dei pani dei pesci? Del pane dei pesci, esatto. Sembra, proprio così. No, si calcola innanzitutto i 600, che poi si aggiungono altri 50 milioni del precedente fondo, esatto, che sono confluito in questo profondo, quindi in totale sono 650 milioni, sono le potenziali perdite che questo fondo può coprire, ricordiamo che garantisce il 50%, quindi diciamo copre le perdite per mutui che erogate di circa 1,3 miliardi, ma in realtà noi calcoliamo la probabilità di insolvenza di questo mercato, che è molto molto bassa, e quindi è possibile applicare, e questo ce l'ha detto la Consap, che è il gestore del fondo, un moltiplicatore di 10 o di 15 a secondo della rischiosità a questo plafond, fino ad arrivare ad una cifra potenziale di 12 miliardi di euro. Questo è il massimo che può coprire, tenendo conto delle simulazioni sulla rischiosità del portafoglio, questa tipologia di fondo. Allora adesso magari con qualche caso specifico e concreto dei nostri ascoltatori capiremo meglio il funzionamento di questa garanzia, come interviene questo organismo che lei ha citato, che è la Consap, che molto spesso abbiamo invitato in passato anche a Cuore Denari, perché è questa organizzazione che fa capo al Ministero dell'Economia, che per esempio gestisce il fondo di solidarietà per i mutui per chi ha bisogno di interromperlo, allora. Gestisce il fondo vittime per la strada nel settore assicurativo, è un fondo molto articolato. In questo caso interviene come garanzia statale per appunto i mutui ipotecari. Cominciamo con Marco? Volentieri, e poi abbiamo anche i moduli. Io sono andata a prenderli qua con le mie gambette nel tuo studio. Perché me li ero dimenticati. Durante il GR sono lì e li ho anche sbirciati un po'. Brava, poi li compiliamo insieme. Marco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccola, buongiorno. Ci dica tutto. Allora, io e mia moglie siamo una giovane coppia, io ho 32 anni, mia moglie 30. Io ho un contratto a tempo indeterminato, mia moglie è dottoressa commercialista, quindi è una partita IVA. Esatto. La difficoltà che... Allora, non siamo ancora andati a chiedere un mutuo, per ora siamo in affitto. A breve vorremmo andare. La difficoltà più grossa che secondo noi troveremo è la percentuale del credito erogato, ovvero, mi spiego meglio. Noi sappiamo che per legge in Italia lo Stato italiano non consente un'erogazione superiore all'80% del valore del... Non è una legge, Marco, diciamo che è proprio una questione legata alla... Io avevo trovato su internet che proprio lo Stato, vabbè, comunque sia. Ecco, quindi a fronte di una spesa sui 150-160 mila euro, no? Una coppia come la nostra che si è appena sposata, quindi non se alla fine sono 10 anni tutti e due, no, io 10 anni, mia moglie sono 3 anni che lavora, sa, avere certo. A disposizione una partenza di 60 certo. mila euro si fa fatica, anche perché poi non è che c'è solamente il valore dell'abitazione, ci sono le spese notarili, c'è da metterla un pochino a posto la casa, c'è da comprare qualcosina, Marco, non è che i soldi vanno tutti lì. Allora, il tema del mutuo al 100%, Marco, è vecchio come la notte dei tempi, perché in realtà nel periodo d'oro delle erogazioni, quando il mercato immobiliare anche in Italia era al suo top, Angelo Peppetti, i mutui al 100% venivano erogati. E come? Non esiste una legge che dice no, oltre l'80% del valore dell'immobile non si può erogare, esistono solo questioni di buonsenso legate al rischio che si corre, no? Quando il mutuo viene erogato secondo questi importi. O esistono delle leggi che io non conosco, che non mi ricordo? No, in realtà c'è una normativa di vigilanza specifica che stabilisce che il mutuo non può essere superiore all'80% a meno che non si acquistino determinate garanzie, come per esempio pegni su titoli di Stato, mortgage insurance, che sono garanzie assicurative sul valore dell'immobile ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, eccetera, insomma, quindi è possibile, la vigilanza, la vigilanza. Diciamo che oggi rappresentano l'1% del totale dei mutui che vengono erogati, quindi si sono veramente ridotti, ma anche in considerazione dell'incremento della rischiosità del portafoglio mutui che c'è stato. Sì, poi abbiamo avuto tutte le questioni legate un po' a Basilea, requisiti anche che mi sono chiesti a livello di vigilanza bancaria europea, che hanno imposto anche tutto questo. Detto ciò, oggi qual è l'importo massimo che può essere erogato ad una famiglia che si trova in queste condizioni, come quelle che ci ha rappresentato appunto il nostro ascoltatore di Milano? Ma guardi, che possono accedere al fondo, lei dice? Parliamo del fondo, ma intanto magari parliamo proprio in termini generali, secondo lei. Ma guardi, allora, l'ammontare massimo è sempre funzione, non voglio essere tedioso, ma è importante ricordarlo, è sempre funzione del rapporto rata-reddito, è sempre funzione del rapporto rata-reddito, quindi anche questo dipende ovviamente dalla durata e dal tasso. Se il rapporto rata-reddito non può essere superiore al 30-35% massimo, e da quella rata massima sostenibile da parte del mutuatario si calcola l'ammontare massimo, diciamo su un totale di 2000 euro, quindi la possibilità di poter sostenere una rata di 650 euro più o meno. Ci troviamo con un ammontare massimo a 20 anni sui mutui adesso a tasso variabile intorno ai 130.000 euro. Questi ascoltatori che ci hanno chiamato poco fa potrebbero secondo lei fare richiesta del mutuo disciplinato dal fondo di garanzia per la casa? Assolutamente sì, rientrano anche in quelle categorie privilegiate che prevedono anche un tetto al tasso massimo degli interessi, anche se oggi veramente i tassi sono molto bassi. Sono talmente bassi che in Danimarca addirittura restituiscono un pochino anche sulla rata, pensi un po' lei, abbiamo scoperto anche ieri questa cosa, ieri poi la racconta ai nostri ascoltatori, esatto. I tassi sono andati in negativo, che addirittura chi sta pagando e rimborsando la rata di un mutuo si trova un piccolo accredito da parte della banca di qualche spicciolo di euro, naturalmente. Tutto aiuta, guarda. Tutto aiuta, noi portiamo però a casa tutto, guarda. Infatti, Peppetti, la lascio concludere qui. Quindi i tassi sono bassi, sono bassi, quindi è assolutamente conveniente. Ricordo che chi accede alla garanzia del fondo non deve portare alcun tipo di ulteriore garanzia, a parte quelle assicurative obbligatorie, quindi non, la banca non può richiedere ad esempio fideiussioni dei genitori o altre tipologie di garanzia, è sufficiente solo il fondo dello Stato. Allora, adesso, visto che l'ho promesso ai nostri ascoltatori, proviamo a fare un'istruttoria, prendendo a spunto proprio il caso dell'ascoltatore che ci ha chiamato poco fa. Stavi leggendo intanto delle cose interessanti? No, sì, le cose interessanti ci sono sempre, stanno arrivando al nostro numero per i messaggi. No, pensavo che tu volessi interrogare uno dei nostri ascoltatori che sono... Possiamo anche farlo, però magari riprendendo l'ascoltatore che ci ha chiamato in precedenza, ci ha dato già i requisiti fondamentali di reddito di questa famiglia. C'è intanto un contratto a tempo indeterminato, che non è poca cosa, e poi un contratto invece, cioè non un contratto, cioè una partita IVA, una commercialista. Questa coppia, tanto per dare anche gli altri requisiti, dottor Peppetti, non deve essere proprietaria intanto di altri immobili, no? Ad uso abitativo. Sì, a meno che non siano stati ovviamente ereditati, ma non acquistati. Non diciamo, mi pare che ci fosse questo caso. Però se ereditano un immobile dal papà o dalla mamma? Se erano immobili possono comunque accedere al fondo, purché l'immobile che viene acquistato sia adibito ad abitazione principale, e inoltre l'immobile non deve essere considerato di lusso, quindi non catastato nelle categorie A1, A8 e A9, che sono, ricordo, sono ville, castelli e immobili di lusso. Niente, allora, peccato, allora basta. Qual è l'importo massimo che può chiedere questa coppia, dottor Peppetti? 250.000 euro. Loro erano orientati su un importo molto basso, inferiore, 150-160.000. Io direi, euro. Non mi ricordo come si chiamasse l'ascoltatore in precedenza, se fosse non era Marco. Va bene, dobbiamo farci caso, vada in banca, vada intanto sul sito della Consap o dell'ABI, vada a vedere se la banca alla quale lei intende rivolgersi è già attrezzata per erogare appunto mutuo con il fondo garanzia per la casa, quindi con questa garanzia statale, per cui tanto per non andare a fare dei viaggi a vuoto, si porti dietro un po' di questi immobili, quindi vada già lì preparato e dice: l'ho sentito anche a Radio 24, io ho i requisiti per poter fare questa richiesta, quindi valutatemi come potenziale candidato appunto per un mutuo di questo tipo. Sentirei Luigi da Napoli, forse era prenotato prima di Claudio. Luigi, benvenuto. Buongiorno, grazie. Molto piacere di sentirvi. Grazie. Allora, il mio problema è questo. Vorrei siamo per concludere, io e la mia compagna, la prossima casa che è in costruzione. Sì. E verrà finita probabilmente entro un anno e mezzo. Volevo sapere se si può accedere al fondo di garanzia della casa facendo mutuo all'incirca della metà dell'importo, che è pari a circa 120.000 euro. Poi voglio sapere anche se il problema della richiesta delle assicurazioni da parte delle banche su tutti i mutui è una cosa obbligatoria o no, visto che se si fa il mutuo del pari al 50% grosso modo del valore della casa, praticamente la garanzia ci sta perché ci sta già un 50% pagato. Allora, grazie Luigi, tutte domande alle quali rispondiamo volentieri. Anche l'accollo, no? Mi sembra da frazionamento, in questo caso si chiama in gergo tecnico così, Luigi Angelo Peppetti, si può far richiesta del mutuo anche per appunto una casa in costruzione di cui ci accogliamo parte del mutuo, perché in genere per le case in costruzione viene fatto il mutuo generale tutto dal costruttore e noi ce ne accogliamo appunto una parte. Sì, purché però l'immobile, questo ce lo dice la Consap, sia già stato realizzato, quindi l'accollo da frazionamento deve avvenire dopo che l'immobile è stato realizzato. Pertanto Luigi, che non vedrà il suo immobile completato prima di un anno e mezzo, mi pare che abbia detto, non può far richiesta del mutuo garantito dal fondo? Sì, esatto. Quindi deve essere già tutto costruito, non in costruzione. Esatto, l'immobile deve essere finito. Esatto. Però Luigi ha un'altra situazione, diciamo, ha anche un mutuo piccolino, mi pare, da chiedere. La casa vale 120.000 euro, mi pare che debba chiedere la metà. Sì, sì, rientra, quando l'immobile è costruito rientra pienamente nei requisiti del fondo, assolutamente sì. Quindi bisogna vedere quando deve fare la richiesta. Sì. La polizza assicurativa, sì. La polizza assicurativa, a parte quella scoppia incendio sull'immobile, quindi non sul mutuo, che è obbligatoria per disposizioni di vigilanza, le banche non possono obbligare il cliente a sottoscrivere la propria polizza assicurativa, nel senso che possono offrirla come discrezione per il cliente, a scelta del cliente, ma non possono obbligare il cliente a sottoscrivere la polizza assicurativa, a meno che non sia una polizza assicurativa che venga, come dire, collocato da un altro soggetto che non sia la banca stessa. Per quindi esempio, può richiedere obbligatoriamente una polizza assicurativa sulla vita purché non sia collocata dalla banca stessa. Noi incidiamo queste sue parole sulla pietra, dottor Peppetti, perché comunque il sistema bancario lo sa benissimo, molte banche vincolano l'erogazione del mutuo alla stipula contestuale appunto della polizza, per cui ecco, ma in guardi, ogni caso posso dire soltanto abbiamo una cosa. Abbiamo avuto tante è una norma che francamente non comprendo, soprattutto in una situazione di difficoltà di accesso al credito. Sembra che tuteli il cliente, ma non lo è, anche perché si dice che le polizze costano, è vero, costa anche però il freno della macchina, facciamo bene ad inserirlo per evitare che ci schiantiamo alla prima curva. La polizza assicurativa ha consentito, soprattutto quella di perdere il posto di lavoro, a tantissime persone su questo di poter lei ha totalmente ragione, è vero, soddisfare il proprio credito senza perdere il lavoro e la casa. Il problema è sempre un po' come viene impostata la trattativa, quando si impone, quando si dice no guarda io non ti do il mutuo se non firmi contestualmente l'assicurazione, poi un conto è impostare invece la negoziazione in maniera di un rapporto di reciproca consapevolezza. Allora in quel caso, perché è vero, ha ragione, abbiamo anche parlato, molte di queste polizze in realtà con tutti quelli che hanno perso il posto di lavoro hanno sopperito proprio a questo mancato introito, mancato ingresso del reddito in famiglia appunto, e hanno permesso di continuare a pagare il mutuo a quelle famiglie che non avevano appunto più denaro per farlo. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, sempre prendendo a spunto la modulistica che bisogna compilare per poter fare la domanda appunto di accesso al fondo di garanzia per la prima casa. Ho già detto quali sono i requisiti che devono avere le coppie che ne fanno richiesta, abbiamo già parlato dell'età, mi pare, e questo è un aspetto anche importante, che anche le coppie non sposate, e cioè conviventi possono fare una richiesta, giusto dottor Peppetti? Le coppie inadempienti, scusi, non ho le coppie conviventi. Vedi che lui pensa subito inadempienti, è un tarlo. Sì, insomma, non serve un marito. Sono, ecco. Sì, anche diciamo così giuridicamente more uxorio, diciamo così. Va bene. Esattamente. Claudio da Milano, sì. Claudio da Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia domanda era questa: io ho 37 anni, in casa lavoro solo io, diciamo mia moglie è disoccupata. Volevo chiedere, essendo che io abito nell'abitazione di famiglia con mia madre e sono in accomodato d'uso, no? Se si poteva accedere al mutuo per ristrutturarla, essendo che è già vecchiotta. Come casa. È giusto. Si può. Grazie Claudio. Sì, mi pare che anche per la ristrutturazione sia possibile far richiesta di accedere al fondo di garanzia, dottor Peppetti. E purtroppo la ristrutturazione deve essere collegata all'acquisto dell'abitazione, non solo la ristrutturazione, quindi il mutuo deve essere destinato all'acquisto ed eventualmente a ristrutturazione, ma non solo per la ristrutturazione. Questa è la decisione purtroppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E infatti i requisiti previsti dal decreto interministeriale sono di non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, di acquistare e intervenire con opere di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, per cui non possiamo accontentare appunto il nostro Claudio, non può, non rientra. Sento questa musica che mi suggerisce qualcosa. Eh sì, perché c'è Paolo Corleone in regia che è fiscalissimo. Allora io segnalo anche che il Sole 24 Ore esce oggi con questo volume, Casa, tutte le informazioni per la corretta gestione dell'immobile, acquisto e vendita, gli atti preliminari, è il numero uno di questa che sarà una collana della quale vi aggiorneremo naturalmente. Se fate i bravi vi regaliamo anche qualche volume. Intanto abbiamo terminato, grazie ad Angelo Peppetti, buona giornata, presto. Grazie a voi. Per tutte le informazioni andate sul sito dell'ABI, sul sito della Consap, ma vi mettiamo anche tutto su Facebook, per cui non potete perdere nessuna informazione sul fondo di garanzia per la casa. Allora a domani. A domani, buona giornata a tutti.